Allora, eccoci di nuovo in diretta, sono le 12.44, all'altro capo del telefono Luca di Cerveteri, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Allora Luca... Scusate la voce, però si sa che è stata, ho visto un po' d'usura, ma... No, non preoccuparti, arriva comunque abbastanza forte. Non sono il nipotino di Sandro Sciotti. Ecco, d'accordo. Allora Luca, la mobilitazione sul piano dei rifiuti, insomma, continua e si fa forte soprattutto nelle località che sono minacciate dagli interventi invasivi che la giunta regionale prevede. Chiaramente, insomma, si fa riferimento alle due discariche provvisorie che si dovrebbero aprire a Corcolle e a Riano e poi a questo impianto di incenerimento che dovrebbe sorgere a Cerveteri. Qual è il piano nella mobilitazione oggi a Cerveteri? Insomma, nell'ultimo mese le iniziative nei confronti contro questo piano, insomma, sono state diverse, no? Allora, innanzitutto, senza annoiare nessuno e schematicamente e sinteticamente, allora, prima cosa bisogna dire, ma non dipende da delle cose esatte, gli impianti previsti, cosiddetti provvisori, sai, adesso senza dire delle cose ovvie, siamo in Italia e possiamo dare un'interpretazione al provvisorio, quindi i provvisori tra virgolette sono stati identificati dal commissario Pecoraro in località Riano, dove hanno girato per intendersi un film che tutti avete visto, Brancaleone alle crociate, che ci sono delle cave particolari, insomma, storiche, e poi località di Corcolle, in un'altra località dove ci sono particolari problemi sia idrici del sottosuolo, anche a Riano, che problemi come dal punto di vista nostro archeologici. La Polverini, raccontano le favolette dei giornali borghesi, tipo Il Messaggero, scendeva in bicicletta lungo via di Castel Campanile. Che cos'è via di Castel Campanile? Una delle vie più belle che vi sfido a percorrere della campagna romana, che è stata relativamente intatta e non violentata dai caltagirone vari, per intendersi. A metà di questa strada c'è un posto bellissimo, una piccola valle in miniatura, sembra la reclame del Mulino Bianco, che si chiama Pizzo del Prete. La località è nel comune di Fiumicino, ma la solita paraventata è quella che in realtà se la becca Cerveteri, che ha un territorio confinante di una frazione che si chiama Valcanneto, che ha 5.000 abitanti, tra i quali molti anche cassintegrati della strage dell'Alitalia di Fiumicino, e un'altra frazione a vocazione agricola che si chiama I Terzi, molto più piccola, dove vi è un parroco, Don Luigi, molto combattivo, che, devo dire la verità, dà le piste a un sacco di cosiddetti compagni, e comunque lo devo ringraziare particolarmente, perché praticamente questo movimento è nato una notte tra un dialogo tra il sottoscritto e lui e un altro sindacalista dell'OSB. Che abbiamo pensato? Inizialmente c'era un movimento che si chiamava il Comitato, posso dire un po' di cronistoria così si capisce? Come no, certamente, anzi ci aiuti, insomma, a rendere più intellegibile la situazione. Poi sai, noi siamo un paese dove tre persone fondano cinque organizzazioni, allora purtroppo poi però c'è sempre un perché e un per come, che se non si capisce poi non si può andare avanti. Allora diciamo, tutto nasce da un preallarme che scatta in una grande assemblea di 600 persone alla cooperativa agricoltori di Testa di Lepre, allevatori di Testa di Lepre, sempre nel circondario, e lì si organizza il movimento era stato messo in piedi da un certo signor Pira Massimo, che è un esperto un po' della munnizza che si aggira per le nostre assemblee, e una persona con la quale io ho collaborato anche in passato, ma diciamo alle condivide il circuito rifiuti zero, che poi mi attarderò a spiegare che cos'è, però poi l'importante le cose è farle, non dirle, perché io sono un uomo io penso che in questo paese, come diceva Monicelli, sia necessaria una rivoluzione democratica, e penso che uno si debba dedicare anima e corpo a questo, perché significa fare i propri interessi. Tante volte la gente mi dice: Luca, perché tu la sera alla notte ti metti a leggere così e fai? Io dico: facci i cazzi miei, perché quando mi occupo di un'antenna, di un inceneritore, del diritto al lavoro, io faccio i cazzi miei, ma quale privato? Ma dove sta sto privato? Allora, riprendiamo il discorso, inizia questo movimento, si formano due frazioni. Io che voglio dire, facciamo una manifestazione al mese, perché il percorso è lungo, sennò la gente si stanca, la gente viene portata invece in base a decisione assembleare ogni settimana a protestare sull'Aurelia. Belle manifestazioni, ma io credo che, siccome la politica è una conta, che ne pensi tu, è meglio fare due manifestazioni in meno con 2000 persone in più che farne 4 da 500, tu che ne pensi? Beh sì, è chiaro, insomma, poi bisogna anche fare in modo che queste verifiche abbiano il massimo consenso, quindi che siano decise, no? Soprattutto il movimento deve essere geometrico nella sua crescita e proposizione, giusto? Allora, se uno rimane parcheggiato a turi in pietra, che magari rompi pure le scatole a dei lavoratori o precari che hanno 3 ore per andare in mare l'estate, perché questa cosa è nata l'estate, credo che non si vada da nessuna parte, perché qui c'è un nemico da identificare. Chi è? La signora Renata Polverini, che scendeva in bicicletta lungo Castel Campanile e ha identificato l'area di Pizzo del Prete, oppure sicuramente qualche persona che ha fatto un lavoro trasandato per lei, non credo che sia stata la Polverini. Alemanno e poi le cordate che ci stanno dietro, perché costruire inceneritori vuol dire commesse per la Marcegaglia e per De Benedetti. Noi scopriamo in questa storia che c'è una trasversalità che è venuta fuori. Ma adesso ritorniamo a noi, allora siamo sull'Aurelia e diciamo: il problema è a Roma. Se non costruiamo un movimento, la storia insegna, Acerra, le lotte in Campania, un comune solo non ce la fa a fronteggiare il problema, anche perché poi noi ci diamo giustamente, io ho il cuore nella Val di Susa, ma la Val di Susa o altre situazioni hanno una tradizione storica cementificata, hanno fatto un lavoro decennale, ma non si può improvvisare un lavoro in un terreno particolarmente retrivo, dove tu sai meglio di me che la gente ti risponde: ma da qualche parte bisognerà pure farlo, e poi ritorneremo a questo tema. Andiamo avanti. Alcuni di noi, non solo io, questo giornalista e il prete, ma altri cittadini si convincono dentro questo movimento che serve sviluppare un coordinamento più ampio, perché se siamo tutti uniti vinciamo, se siamo paese per paese a difendere l'orticello verremo annientati tutti. Ti ricordi quel film Il Gladiatore, no? Quando lui dice: stanno sull'arena, avremo una probabilità, no, di sopravvivere se ci mettiamo in compatti, in testuggine, se andiamo uno sparso e un altro sparso verremo tutti ammazzati, giusto? Sì. Allora, da che cosa dobbiamo attingere? Mi senti? Certo. Dall'esperienza storica dell'acqua, no? Cioè, con l'acqua perché si è vinto? Perché c'è stata una grande unione di tutti quanti i comitati che hanno rispettato la loro autonomia, che convergevano su un minimo comune denominatore. Ed è stata la più grande battaglia anticapitalista vinta in Italia, di profondo contenuto ancora più del nucleare, l'acqua. Allora noi dobbiamo fare questa esperienza, anche se non c'è una competizione elettorale, sono i grandi numeri, perché nel momento in cui, come stiamo procedendo che abbiamo il 2 agosto riunito i primi 12 comitati e ci siamo chiamati comitati rifiuti zero per il Lazio, vada bene, non del Lazio, perché noi ci battiamo per l'unità per il Lazio, ma non sapremo, non sarà detto che sapremo neanche noi a dare le direttive che devono essere orizzontali di un movimento. Quello che negavamo al movimento Rifiuti Zero di Fiumicino, di Piras, era che decideva una persona sola. Qui invece ogni comitato porta le proprie posizioni, c'è un'assemblea orizzontale, c'è un metodo di democrazia diretta. Ti fa schifo la democrazia diretta? Assolutamente no. Ecco, questo è il nostro sistema, un sistema che forse, voglio dire, a qualcuno non piace. Poi noi non abbiamo mai avuto un atteggiamento ipocrita e farisaico con i partiti. Cioè, i partiti, dobbiamo capire da che parte stanno, giusto? Se sono, se sostengono le nostre lotte, vengono giudicati passetto per passetto, simbolicamente vengono pigliati per il collo dal movimento. Il movimento deve avere un ruolo attivo con i partiti, non passivo, di aspettativa. Deve essere un ruolo incastratorio, propositivo. Tu che fai? Cosa hai detto qua? Cosa hai fatto là? Questo è il sistema per far nascere delle contraddizioni in una situazione per la quale, come era per l'acqua, all'inizio abbiamo tutti contro, perché c'è uno schieramento bipartisan, che lo stesso delle guerre imperialiste, parliamoci che posso usare questa parola vintage, scusa, certamente la puoi usare, si crea con l'inceneritore e la discarica. Perché? Perché noi siamo un paese di matti. Cioè, e viviamo il sistema capitalista, è un sistema di pazzi, perché ci sarebbe la soluzione alternativa. Il concetto di rifiuto non esiste più. Quando noi parliamo di rifiuti zero, non è che proponiamo, come i preti che fanno il loro mestiere, l'aldilà, e poi che ne sai se c'è l'aldilà o no. Diciamo una cosa che esiste, che è praticata già il 62, scusa, i 62 comuni italiani, che nasce dalla porta a porta o da una differenziata cosciente. Dopodiché vi sono degli impianti, l'avrei sentito nominare, tipo Vedelago a Treviso, che funziona per 200.000 abitanti, dove la frazione solida urbana, il metallo, per chi non sa niente, il vetro, la plastica, la carta, vengono riciclati e formano altri materiali, riformano vetro, carta. Quello che avanza, il particolarato che avanza, viene trattato a freddo, senza combustione e produzione di diossina, e ci fai il manto autostradale, i guardrail, i banchi per le scuole. La frazione che arriva in rimane si aggira sul 2-3%, ma potete immaginare tutte e tutti quanti che significa avere un 2-3% di rifiuti. È come se a Roma, anziché avere 1.200.000 tonnellate all'anno, tu avessi 24.000 tonnellate di rifiuto, e basta, che ne so, l'orticello del mio amico per contenerle, insomma. No, cioè, diventa un problema che non è un problema nazionale. Del resto, che cosa sta facendo, non so se lo sai, il sindaco De Magistris? Lo sapete, no? Dici cosa? Il sindaco De Magistris a Napoli, cosa che sta facendo? Non è ricorso né a inceneritori né a discariche nuove, non ha conferito più nulla in discarica, manda tutto in Olanda, dove costa di meno, e nel frattempo si prepara e si attrezza per la porta a porta in ogni circondario di Napoli e per il ciclo del materiale. E poi c'è un altro discorso che sapete, a monte l'industria e i bar e tutto quanto, c'è un tipo di attrezzatura diversa che va usata per non usare, ecco, faccio l'esempio banale, c'è tutto quello che è confezionamento dei prodotti. Certo. Beh, è chiaro, insomma, che è a monte, no, che alcuni processi vanno chiaramente rivisti. Allora, però Luca, io volevo, siccome abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, proprio perché tu, diciamo, insistevi molto e giustamente sul fatto che va costruito un fronte il più largo possibile, anche per far arrivare forte e chiaro il messaggio che diciamo, le popolazioni che si stanno muovendo per lottare contro discariche e inceneritori non lo fanno secondo la logica "non nel mio giardino", no? E dunque è proprio assecondando questo tipo di logica che serve costruire quei momenti di confronto unitari tra i diversi comitati che si stanno occupando, insomma, di questi temi. A Roncigliano, ad esempio, i propositi, diciamo, speculativi di Cerroni sono stati frenati da una mobilitazione continua messa in campo dai diversi soggetti che sono nei paesi, diciamo intorno a Roncigliano, Albano, da quelle parti. Chiaramente il fronte che si dovrebbe ampliare a questo punto è proprio con le popolazioni di Fiumicino, Riano, Corcolle, per costruire un fronte unitario in modo da respingere al mittente, insomma, la campagna pro-inceneritore che la giunta sta conducendo, anche perché, insomma, come al solito si contrabbandano verità di impianti tecnologicamente avanzati che ridurrebbero di molto la portata dell'inquinamento. Noi a questo, infatti, rispondiamo, ecco. Se permetti, sì, come no. al dunque, sì, vai. Allora, questo tragitto che noi compiamo ha due tappe fondamentali: il 28 settembre e il 19 ottobre. Tutte e due le tappe sono alla Pisana. Noi riusciamo a fare il 28 settembre una manifestazione con 700 cittadini, solo delle nostre zone, poi con una delegazione anche di Albano, perché noi fratelli di Albano ci conosciamo molto da vicino, e quando io vedo il settimo invaso, io la chiamo la montagna della merda, veramente ho giurato a me stesso che quella è l'ultima discarica che si deve costruire in Italia, perché dovranno passare sui nostri corpi per farne altre. Comunque, andiamo per ordine. Dicevamo, 28 settembre 700 persone di giorno feriale alla regione, di mercoledì, qua gente che lavora così, ti dico, una fatica pazzesca, le portiamo, una delegazione entra, non si presenta la maggioranza, io e altri occupiamo la sala e diciamo non ce ne andremo mai di qui se non viene il presidente del consiglio, lì come si chiama, bruzzese, e ci fissa un'udienza che per il piano è un'udienza straordinaria del consiglio regionale sul piano rifiuti, perché che aveva fatto la regione? Aveva sempre dimandato, avevano fatto la cappuccella da struzzo, faceva comodo a tutti, all'opposizione bipartisan, che però pro combustione, pro inceneritori, no? Parliamo chiaro, PD e Sinistra e Libertà, Ecologia e Libertà, no? Chiamiamoli con nome e cognome. Poi che dentro il PD e SEL ci siano varie componenti, bisogna portare il dialogo, quello è un lavoro che noi facciamo e non guardiamo in faccia a nessuno, anche la gente di centrodestra che in molti casi porti la contraddizione è necessaria, no? Allora, noi facciamo il nostro lavoro. E per il 19 ottobre, grazie a questa occupazione della sala degli Etruschi da parte nostra, si fissa il Consiglio regionale, dove sapevamo perfettamente che non sarebbe passata nessuna mozione, perché c'è chi va a dire in giro, no? Perché è stata presentata una legge di iniziativa popolare sui rifiuti. In Italia non è mai passata una legge di iniziativa popolare. Pensa se può passare una legge di iniziativa popolare quando non passa nemmeno una tiepida mozione dell'opposizione, che perlomeno voleva un attimo congelare i siti e adottare la situazione, che ne so, napoletana o altre soluzioni, una proroga piccola per qualche cosa, e vedere un po' di procedere subito col portafoglio. Non è passato nulla. Noi sapevamo, però dovevamo far calare la maschera, perché le popolazioni devono sapere cosa hanno eletto con la Polverini, ma cosa hanno eletto anche con l'opposizione. Giusto così puoi portare la contraddizione. Allora, perché è importante unire? Uniamo i comitati, ma dobbiamo avere delle parole d'ordine forti. Ti dico uno slogan fondamentale. Il nostro slogan è né qui né altrove, discariche, inceneritori, se no non siamo credibili. Il secondo passaggio è assolutamente protesta e proposta, perché alla domanda che fanno tutti, sì ma dove lo mettiamo, sì ma dove inceneriamo, dobbiamo dire che c'è la soluzione alternativa e soltanto un comitato d'affari, anzi due comitati d'affari che si fronteggiano, uno che fa capo dietro il sindaco di Roma e l'altro che fa capo a Cerroni, però sai, poi quando due si, cioè tu la conosci, andranno alla guerra, fanno la guerra, muoiono tutti, poi si mettono d'accordo. Lo trovano l'accordo anche perché il signore Cerroni è proprietario, no? Tu lo sai, anche di dei terreni che devono conferire subito alla Ariano, cosiddetta sì. provvisoria Ariano. Sì. Allora, noi stiamo unendo questo processo, prima dal nord-ovest, adesso Ariano ha aderito e stiamo costruendo per il 19 novembre, te lo posso dare ufficialmente la data, ci sarà sabato 19 novembre la prima grande mobilitazione in Campidoglio. Non ci frega se c'è il consiglio comunale o no, Campidoglio perché simbolicamente lì c'è il sindaco di Roma, giusto? La risposta politica va data lì, dobbiamo riempire la piazza lì, ma questo è un episodio, non è una battaglia, la guerra continua, la guerra sarà quella di convincere l'opinione pubblica della nostra regione che c'è una soluzione alternativa e che se i partiti non cambieranno posizione dovranno fare i conti con le popolazioni e i centinaia di migliaia, noi pochi cittadini che si mobilitano, siamo d'accordo? Questa è la strategia e la tattica, tutto il resto si perde, solo con questo c'è la possibilità, c'è bisogno di tempo, ma se uno fa un discorso che ha delle fondate radici, una credibilità scientifica articolata, va avanti, perché adesso quando la gente, anche il cittadino più moderato, comprende che nel suo interesse, come è stato per l'acqua, è meglio salvaguardare il bene comune, salvaguardare il futuro, perché qui c'è il rischio la produzione agricola, ci sono a rischio 40.000 posti di lavoro, non sono uno scherzo, per creare 40 addetti negli impianti di incenerimento, ma stiamo scherzando. Allora, questo è il percorso, deve essere un percorso condiviso, democratico veramente, da democrazia diretta, se no, se c'è un leader solo e qualcuno poi può essere che se lo compra, visto che Cerroni e compagni, se siamo 1.000-5.000 leader è un po' difficile accompagnarci tutti, che ne pensi? Certo Luca, va bene, va benissimo, sei stato chiarissimo, molte parti diciamo del tuo ragionamento sono tra l'altro pienamente condivisibili e ci fa piacere anche il fatto che ci hai dato così, se possiamo dire, in anteprima questa data del 19 novembre su cui convergeranno tutte le diverse... Scusa, per l'unità mentale c'è un'altra data, il 5 novembre, che non abbiamo organizzato noi ma che diamo l'adesione, è organizzata da dal gruppo Rifiuti Zero Fiumicino di Piras, perché comunque in ogni fase del nostro discorso dobbiamo essere onesti e lineari, quindi io posso essere un acerrimo nemico di certi comportamenti ma non sarò mai disonesto e non colpirò nessuno alle spalle, sono molto antico, d'accordo, come d'accordo, etruschi, d'accordo, come gli etruschi di Cervelli della necropoli, esatto, etruschi, allora fieri. Allora l'appuntamento per tutti comunque è per il mese di novembre, soprattutto il 19 quando ci sarà questa mobilitazione unitaria. Luca ti ringraziamo e a risentirci presto. Ringraziamo Onda Rossa e appoggiamo tutte e tutti, il saluto mio a chi è privato della libertà. Ciao, grazie, ciao. Prego.